Radio 24 Reportage. Mbeng, il viaggio di Clariste, di Gigi Donelli. Una giovane donna africana, una calciatrice, un sogno che si chiama Mbeng, Europa. Il racconto di un viaggio che è una vita, sono 7.000 chilometri in 8 anni. Un percorso lungo e tortuoso nel tempo e nello spazio, aggrappata al football per avvicinare l'Europa. La storia di Clariste è la storia di un inganno, di un sogno, l'Europa, che è illusione. Ma è anche la narrazione di una rinascita, di un ritorno all'Africa. Voglio subito che sia chiara una cosa. Partire non è una scelta, è una necessità. Ho deciso di mettermi in viaggio nel 1998 alla fine dell'anno, alla fine del mese di settembre. L'ho fatto perché ad un certo punto della mia vita, quando stavo per compiere 20 anni, mi sono resa conto che nel mio paese, il Camerun, non avevo nessuna possibilità di realizzare quelli che erano i miei sogni. Il sogno che avevo di vivere una vita libera, cercando la strada per migliorarmi e poi realizzare le mie aspirazioni. Beh, tutto questo nel 1998. Ho capito che non sarebbe stato possibile. E allora ho deciso di partire. Clariste Soumoubé è nata nel 1979 a Yaoundé, in Camerun. Terminate con buon esito le scuole primarie e secondarie, intraprende gli studi superiori che interrompe per lanciarsi nell'avventura, l'avventura della migrazione in Europa. Tout simplement parce qu'en 1998... Nel 1998 eravamo in qualche modo alla fine di un'era. A quel tempo un'intera generazione aveva già fatto il viaggio a Mbeng. Mbeng è una parola derivata dal termine Mbengue, che nel dialetto di Douala vuol dire Occidente. Occidente, dunque Europa, in primo luogo Parigi. Negli anni Ottanta il viaggio a Mbeng è diventato una vera e propria ossessione per un'intera generazione di giovani africani. Da una parte da noi non c'era nulla per sognare, non vedevamo possibilità né speranze e allo stesso tempo, lontano a Mbeng, c'era tutto quello che un giovane poteva desiderare. Si andava verso Mbeng perché Mbeng è speranza, è vita, è bellezza. Lo sapevamo perché lo vedevamo alla televisione. Avevamo dei fratelli maggiori e delle sorelle maggiori che avevano fatto il viaggio e che ce l'avevano fatta. Era un'ossessione che per molti si manifestava con la fine del liceo. Eri verso la fine degli studi, diventavi adulto e cominciavi a chiederti a cosa sarebbero serviti i tuoi sforzi. Qui a casa non succede nulla, le cose non accadono qui, ma a Mbeng. Ed ecco allora che è lì che bisogna andare. All'inizio ho detto che non si tratta veramente di una scelta, piuttosto di una necessità. Per me è stato proprio così. Quando sei immerso nel buio e vedi che da qualche parte si accende la luce, allora devi seguire la luce. Partire dunque, una necessità più che una scelta, e lei decide di farlo, scegliendo, come tanti, la via del mare. Quando ho deciso di partire, ho cercato di riflettere bene su come raggiungere la prima tappa. Intanto dovevo uscire dal mio paese. La prima tappa sarebbe stata comunque la Nigeria. Normalmente si può scegliere di prendere un aereo, oppure di seguire la via terrestre, o invece quella del mare. La prima opzione per me era esclusa per una questione di soldi che non avevo. La via di terra mi sembrava troppo rischiosa per una donna sola. Alla fine ho scelto il mare. Io, che il mare non lo conoscevo nemmeno. Sono andata verso la baia di Edinè, e ho cercato un imbarco tra i contrabbandieri che dal Camerun fanno la tratta con la Nigeria. Il biglietto non era troppo caro e in un primo tempo il peschereccio che ci caricava mi sembrava solido, anche se era molto vecchio. La verità è che non pensavo che ci avrebbero caricati in 300 e infatti non abbiamo fatto molta strada. Dopo un'ora in mare abbiamo iniziato a imbarcare acqua. E quando siamo tornati verso la costa, mi sono resa conto che stavo rischiando di scomparire nell'oceano senza nemmeno aver lasciato il mio paese. Comunque, in qualche modo, siamo tornati alla spiaggia, fradici e spaventati. Il giorno successivo ho trovato un imbarco su quelle che chiamano le flying boat, le piroghe volanti, che di persone ne portano al massimo una decina e sono molto più veloci. Ci sono volute quasi 7 ore per raggiungere il villaggio Oron, Nigeria. Ripensandoci, è vero che avevo paura del mare, ma soprattutto, come tutti, avevo paura di essere catturata dalle pattuglie di frontiera. Ma è andata bene. Tu sei finalmente ben passato. Dalla Nigeria, dunque, il viaggio prosegue verso Occidente. Autobus, macchine, mezzi di fortuna, attraverso il Benin, il Togo, per arrivare in una grande città dell'Africa occidentale, Abidjan, Costa d'Avorio. Per Clariste, che non ha mezzi e pochi amici ad aiutarla, una soluzione può essere cercata nella passione che ha da sempre, da ragazzina, quella del calcio, una grande passione africana. Déjà parce que le foot chez moi, mon papa était footballeur. Il calcio a casa mia non è mai stato un affare di maschi e di femmine. È sempre stato considerato lo sport di casa e mio padre stesso è stato a suo tempo un buon giocatore. Quando ero in Camerun ho giocato regolarmente da piccola e quando si è trattato di trovare il modo di andare avanti con i miei studi, nonostante le condizioni economiche della mia famiglia, ho trovato la risposta proprio nello sport. In Costa d'Avorio, dove ero straniera e senza documenti in regola, è accaduta la stessa cosa. Il talento viene accettato con facilità e per me non è stato difficile cercare una società di calcio femminile, ottenere un provino e ricominciare a vivere senza dovermi nascondere. Le cose stavano cominciando a girare bene per me. Abidjan era un grande polo economico e per gli stranieri c'erano delle possibilità, o almeno sembravano esserci, almeno fino a quando la situazione politica del paese non iniziò a precipitare. Clariste dunque ad Abidjan. Le cose sembrano andare bene, almeno fino a quando è il paese nel suo insieme che inizia a precipitare in una fase di crisi che porterà alla guerra civile. Insomma, il vento cambia, emerge il fantasma dell'ivuarité, gli stranieri non sono più graditi in quella che è una città che storicamente richiama lavoratori stranieri da tutta l'Africa occidentale. J'ai pas laissé Abidjan de plein gré. La crisi politica del 2000 mi ha costretta nuovamente a cambiare i piani. Ancora 6 mesi prima ero convinta che sarei rimasta nella capitale ivoriana il tempo necessario a mettere via i soldi che mi avrebbero portata a Mbeng da regolare e con un biglietto aereo di sola andata. Ma in 6 mesi le cose sono precipitate. Gli stranieri non erano più i benvenuti in città. Le violenze si moltiplicavano e per gli stranieri come me era venuto il tempo di ripartire. Alcuni miei compagni di viaggio scelsero di rifugiarsi in Ghana, ma io non volevo tornare sui miei passi. Ed è così che nel febbraio del 2001, a poco più di 2 anni dalla partenza, ho deciso di riprendere il viaggio verso l'Europa, lasciando la Costa d'Avorio alla volta del Mali. Le Mali, Bamako. Sono passati già più di 2 anni, ma il viaggio di Clariste Soumoubé verso Mbeng, verso l'Europa, è ancora molto lungo. Lascia dunque la Costa d'Avorio per raggiungere il Mali, la porta del deserto. Il deserto che dovrà affrontare e che rappresenta uno dei momenti più difficili del viaggio della speranza verso l'Occidente. La settimana prossima vi racconteremo il seguito di questo viaggio che Clarisse Soumbué racconta in un libro, si chiama La trappola, l'odissea della migrazione, il respingimento, la rinascita, un diario che ha pubblicato per le edizioni L'Infinito. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.